Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E beh, è iniziata il nostro periodo natalizio. Su Radio Stonata è da qualche giorno già che si respira aria natalizia. Io ho bigiato la settimana scorsa, quindi non ci sono stato. Però apriamo anche noi l'inizio di ogni ora con una canzone di Natale. Io ho fatto un salto nel passato, perché questa per me è la canzone di Natale per eccellenza. Loro sono i Wham, quindi... Cioè, come fai a non... Cioè, 1983, tante cose... Vabbè, lasciamo stare, andiamo in posti caldi, andiamo in posti esotici, andiamo a trovare la nostra Elena Nebbiolo. Ciao Elena, buonasera e ben ritrovata. Ciao Beppe. Quindi, Elena, siamo arrivati a Cali? No. Forse tu sei arrivato a Cali e devi confessare qualcosa a tutti quelli che ci ascoltano. Me l'hai confessato prima e io voglio che adesso tu lo dica a tutti. Allora, che rispetto ti ha fatto questo mio racconto colombiano. Tutto è nato così praticamente. Io dovevo preparare l'intervista con Elena mi dice parliamo di Colombia. E io nel documentarmi, nella prima puntata, ho detto la Colombia è legata, perché su una piattaforma televisiva c'è una serie televisiva che è appunto Narcos, che si parla appunto di Colombia, di Pablo Escobar, quindi da là che succede che io mi appassiono a questa serie televisiva. Succede che tu dici che non l'avresti mai guardata e io ti ho detto guarda che stai sbagliando, e non solo, quindi diciamola tutta, non solo il nostro caro Beppe ha visto tutte e due le serie dedicate a Pablo Escobar, ma lui è già arrivato alla terza, quella dedicata al cartello di Cali. Brava. Quindi... Sì, ma appassiona anche queste sonorità, queste musiche, capito? Cioè questa... è fatta bene, dai, è un mix tra film, tra reportage, insomma, mischiano foto reali con pezzi di... Poi il fatto che è sottotitolato, quindi che parlano... Vabbè, comunque tu è sei... molto, molto bello. Sì, no, e il fatto sai qual è? Che io sono arrivato in fondo con te a parlare di Colombia. Questa sera è l'ultima puntata in cui ti troviamo in diretta qui con noi, 3 puntate di seguito con la nostra Elena. E siamo arrivati alla fine della Colombia, io sto arrivando alla fine della mia serie, cioè quindi la cosa è strana. Esatto, tu stai arrivando alla fine della serie in Colombia e stasera per l'ultima sera vi parlo di Colombia. Però io ho letto... Sono state 3 puntate di seguito, infatti... quindi spero di aver trasferito tutte le bellezze. Ma non ci porti solo in Colombia, no? Ci porti in Salento e in Finlandia? Allora, che detta così sembra che vi porti dalla Puglia al Nord Europa. Infatti. E invece no, innanzitutto. Non è così? No, Elena. L'abbiamo persa. Ragazzi, abbiamo perso Elena Nebbiolo. Ma ci rifacciamo subito. Che facciamo? Sì, la recuperiamo subito, Elena. Come? Ve lo dico io come facciamo. Facciamo che la nostra regia è così potente che richiama la nostra Elena. Regia, che facciamo? Chiamiamo Elena Nebbiolo? Sì! In diretta su Radio Stonata stiamo richiamando Elena Nebbiolo. Tutto ciò è fantastico, ragazzi. Voi non ci crederete, ma sta avvenendo in diretta. Stiamo richiamando Elena. Elena! Mo ci risponderà qualche gestore telefonico? No, suona. Pronto? Ci sei? Ci sono. Ma cos'è successo? Hai staccato tutto per guardare la fine della serie di Cali? No, è successo non so cosa, qualcuno ci sta sabotando, però ci siamo riusciti a recuperare la nostra Elena. Elena, quindi raccontaci un po', stavamo parlando appunto di Puglia e di Finlandia, mi sembra, no? Sì, stavamo parlando di Puglia e di Finlandia, no, stavamo parlando di Salento, ma Salento che è una cittadina dell'Eje Cafetero, una zona meravigliosa della Colombia, e di Finlandia, che è un altro paese, sempre molto vicino a Salento, mm-hmm. E siamo quindi in Colombia, non vi ho portati né in Puglia né in Nord Europa, siamo sempre lì, ma ci sono questi due splendidi paesini, proprio immersi nell'atmosfera delle terre del caffè, mm-hmm. Che sono due cittadine molto belle da visitare, molto colorate, devo dire che tutta la Colombia questa. Ma il tuo articolo parte che tanto ti è entusiasmata l'Amazzonia, come ci hai raccontato due settimane fa, che questo posto comunque non ti ha lasciato così tanto. Cioè, forse anche allo stesso livello, forse di più dell'Amazzonia. È sempre difficile fare delle classifiche, devo dire mi hanno entusiasmato allo stesso modo, ma per motivi diversi, perché questa zona qui, che tra l'altro io ho raggiunto in aereo, perché come dicevo già nella prima puntata le distanze sono molto grandi, e l'Eje Cafetero nello specifico si trova nella parte centrale della Colombia, è una terra che a me probabilmente ha trasferito anche questa sensazione di sentirmi un po' a casa, perché io nasco nelle Langhe e quindi sono un po' sentimentale quando vedo le colline. Siccome è una terra di colline anche questa, con dei paesaggi bellissimi, mi sono sentita un po' a casa, lontana da casa. Un po' a casa, lontana da casa. Ah, bella. Sì. Però la cosa bella è che hai incontrato la tua guida, cioè Luca. Sì, finalmente qui c'è stato il grande incontro di persona, dopo esserci sentiti per tantissimi mesi via messaggi, via email, organizzare tutto, qui ci siamo incontrati con lui perché lui vive in questa zona qui, ha scelto questa come casa sua e tra l'altro è come dargli torto, come scrivo nell'articolo, già partiamo dal fatto che è una zona di eterna primavera, per cui maglioncino la sera, maniche corte di giorno, e è una stagione perenne, quindi direi già meraviglioso questo. Lui vive a Pereira, che è stata la nostra base di partenza poi per tutte le escursioni che abbiamo fatto in quella zona, sono le sue terre, ci ha accompagnato lui a vederle, lui ragazzo straordinario, come mi aveva già dimostrato durante l'organizzazione, ancora più bello è stato viverlo di persona e vivere anche la sua passione per questi posti. Ed è riuscito a trasferircela bene, in più ovviamente visitandole con una persona che ci vive è riuscito a mostrarci tutte le parti più interessanti, ma senza nasconderci quelli che possono poi essere anche magari dei lati meno belli o che comunque vanno portati all'attenzione delle persone. E quindi la prima tappa è di questo viaggio con appunto con la guida, con Luca, è stata? Allora, noi abbiamo fatto 3 giorni. Il primo giorno abbiamo appunto visitato questi 2 bellissimi paesi, Salento, Finlandia, proprio nel cuore delle terre del caffè, e poi abbiamo visitato quella che forse è la meta più turistica di questa zona dell'Eje Cafetero, che è la Valle di Cocora, che è la valle nota e che in qualunque rivista, Lonely Planet, sono note le foto delle palme da cera, questo paesaggio di palme che si stagliano verso il cielo in un paesaggio abbastanza rado, per cui si notano molto, ed è un paesaggio mozzafiato, veramente queste bellissimo. Palme sono fantastiche perché raggiungono altezze spaventose, no? Sì, arrivano fino a 60 metri le palme da cera. Per cui sono tra l'altro l'albero nazionale della Colombia, per cui assolutamente preservate. Il problema è che, come racconto nell'articolo, ci si trova davanti a questo paesaggio bellissimo, pieno di turisti ovviamente, a scattare foto, però poi Luca ci ha raccontato un po' cosa sta dietro questo paesaggio meraviglioso, e perché la palma da cera è l'albero nazionale, per cui viene sì preservato, ma purtroppo non viene preservata tutto il resto della vegetazione, che però è non solo utile, indispensabile alla palma da cera per crescere e per sopravvivere. Quindi questo paesaggio composto solo da palme da cera, perché tutto il resto della vegetazione in realtà è frutto di disboscamento, di un disboscamento molto aggressivo, fa sì che la palma da cera stessa sia in grandissimo pericolo, perché non può germinare senza il resto della foresta accanto. E voi avete fatto una cosa molto interessante, no? Sì, sì, sempre grazie a Luca, ci ha portato poco distante, da sempre all'interno di questa valle. Abbiamo preso la macchina, in un quarto d'ora siamo arrivati in un posto dove ci sono dei ragazzi che seguono appunto un progetto di riforestazione della palma da cera, e abbiamo piantato due palme, gli abbiamo dato anche un nome, quindi le abbiamo piantato ovviamente i piantini piccole piccole, dandogli i nostri nomi, questo all'interno invece di una foresta ancora fitta e abitata, dove hanno più probabilità di crescere, di sopravvivere. Quindi abbiamo partecipato a questo progetto di riforestazione, di salvaguardia della palma da cera. È stato molto carino, un momento, insomma, anche se può sembrare una cosa giocosa, per noi è stato molto emozionante piantare le nostre palme. E un'altra cosa che a me mi ha colpito leggendo l'articolo, e poi ci facciamo una pausa pubblicitaria e te lo volevo chiedere, questa mega struttura in legno, questa torre in legno. No, però io oramai ti conosco troppo troppo bene. Perché? Devo dirti la verità, perché io sapevo che tu saresti stato attirato e che mi avresti chiesto qualcosa su questa struttura. Ma sai perché? No, ma ti spiego perché. Ti spiego perché. Sai perché? Perché sei un architetto. No, e io no, no, perché dove... quando tu hai parlato, cioè quando tu nell'articolo, mentre lo leggevo, non ho visto subito l'immagine, e mentre pensavo a una torre in legno, mi è balenata in testa, non so come, l'albero della vita dell'Expo, che vedendolo un po' gli assomiglia, capito, da dove è nato tutto. un pochettino forse sì, un po' sì. Allora, questo si trova a Finlandia, appunto, è il mirador della collina illuminata. È una struttura appunto in legno, alta 19 metri, si sale, si passa piano per piano, mi sembra che siano 4-5 piani, e man mano si svela sempre di più il paesaggio collinare intorno, fino ad arrivare alla parte più alta, dove veramente il panorama è bellissimo. Quindi una delle tappe, ma chiunque vada a Finlandia, a parte che si nota, vista l'altezza e vista anche, come hai notato, è abbastanza singolare come costruzione, si fa notare, e poi merita veramente salire per vedere il panorama. Infatti, vedi che merita salire per vedere il panorama. E niente, sì. Io direi di farci una piccola pausa pubblicitaria, ci ascoltiamo un brano che è Giovanotti, Chiaro di Luna, qui su Radio Stonata, e poi ritorniamo ancora con Elena. Sei d'accordo? Chiaro di Luna, Giovanotti su Radio Stonata. No, perché lui termina questa canzone e fa lascio stare, non so cantare, sono stonato. Anche se vi svelo una cosa, ho cantato anche quest'anno la canzone di Natale. Non so quando arriverà, però, ragazzi, è da vedere. Va bene, ritorniamo in diretta su Radio Stonata, sempre con la nostra Elena Nebbiolo di nonsoloturisti.it. L'ultima puntata in cui parleremo di Colombia, e poi la lasceremo a qualche altro viaggio, forse, o a qualche vacanza di relax, la nostra Elena. Ma oggi siamo concentrati su due articoli. Il primo l'abbiamo sviscerato e li trovate sulla nostra pagina Facebook di Radio Stonata. Ci sono i link sotto, li potete andare a visionare e leggere in diretta con noi. Elena? Eccomi. Ah, ci sei. Ti preferisco in versione speaker, che cantante, ti devo dire la verità. Ma hai sentito qualche... Terrei così, non lo so, una sensazione. No, sono molto strano. Infatti ogni volta per la canzone di Natale sono quello messo peggio, male. E poi stonato su Radio Stonata è il massimo. No, però poi ti invito, sei coerente con la tua radio, infatti è così, però ti invito ad ascoltarla appena sarà pubblicata, cioè, vedrai anche il mio faccione, immagino, che canta. Va bene, ritorniamo a parlare di Colombia, perché come è andato poi il viaggio, cioè questi giorni che hai passato in questa parte della Colombia, e poi anche andiamo con l'ultima parte del tuo ultimo articolo, tutto ultimo, mamma, aiuto. L'ultimo, hai trovato un modo per far venire la malinconia a me, a te, a tutti, ultimo, ma no, ma mi risentirete, e quindi finisce solo il viaggio in Colombia, ma ce ne sono tanti altri poi da raccontare. Detto questo, sì, allora, quella che ho raccontato prima è stata la nostra prima giornata. Noi di giornate ne abbiamo passate tre, e Luca è stato molto attento nell'organizzarci, ci ha fatto fare cose anche molto diverse tra di loro, per scoprire poi al meglio il territorio. Per cui il secondo giorno ci ha fatto fare un'esperienza molto tipica, nel senso che abbiamo preso un mezzo pubblico che si chiama Civa. Mm-hmm. È un mezzo tipico dell'Ecuador e della Colombia, una sorta di bus ma senza porte, tutto colorato, senza porte, sì, si sale, così ci sono solo delle lunghe panche, ci sono arabeschi, figure locali, insomma molto folcloristico come mezzo, e viene utilizzato in queste zone per spostarsi, soprattutto per escursioni. La faccio o non la faccio? La faccio o non la faccio? La domanda? Sì. Falla. Perché non c'è una foto? Perché non c'è una foto? Allora, hai anche ragione tu, io ne ho fatte di foto, ma devo dire che non mi sono venute molto bene. Tra l'altro io, nonostante... Cioè, una reporter, fotoreporter come te, come ha fatto a non fare una foto bene? Non lo capisco questa cosa. No, ma allora, no, ti spiego, in realtà io ho scritto una frase dove ho scritto che... le persone a bordo sono decisamente allegre, ecco, l'hai detto, sì, l'ho letta sta cosa, ecco, questo in realtà ha creato a me un po' di affanno. Io sono leggermente claustrofobica, per cui questo viaggio con questo mezzo ammetto che l'ho un po' patito, perché il tasso di allegria su quel mezzo era altissimo, quindi questa gente che cantava, che... E io ho avuto insomma un attimo di ansia, e quindi non ho più pensato alla macchina fotografica. Questa è la verità per cui manca la foto. E quando alla discesa, quando sei scesa, bello. Quando c'è lo stagione, niente, c'è presa l'ansia, basta. Ragazzi, io... niente. Però tornare in Colombia o andare in Ci sono altre foto molto belle comunque, quindi non vi preoccupate. Meno male, dai, ho cercato di compensare. Poi infatti, la torretta è la cosa migliore di tutti, forse. Della riserva naturale. Abbiamo visitato questa, il primo giorno appunto, la riserva naturale dell'Utunkimbaya, dove abbiamo fatto questo viaggio in questa foresta, questo trekking in questa foresta fittissima. Come descrivo, ci sono alcuni punti in cui non passa nemmeno un raggio di sole, diventa buio all'improvviso. Abbiamo visto tantissime specie di farfalle, piante di ogni cascate tipo, pazzesche. Per arrivare a quella che è una cascata molto molto bella, che è la cascata dello Sprailes, e quindi ci siamo poi fermati un po' lì ad ammirare la potenza dell'acqua. Le cascate hanno sempre un grande fascino poi all'interno di un contesto naturale così bello, e quindi questo è stato il trekking che ci ha portato a conoscere meglio la natura di queste zone. L'ultimo giorno invece l'abbiamo... Forse è stata l'esperienza che ci ha permesso di immergerci in modo più forte con questa zona della Valle del Caffè, dell'Eje Caffettero. Abbiamo visitato una finca del caffè, ovvero dove il caffè viene coltivato, viene raccolto, e abbiamo lavorato durissimamente. C'è una foto che testimonia ciò, vedete una giovane bellissima Elena Nebbiolo con un cappello, un cesto davanti al corpo, dove si raccoglie i chicchi di caffè, no? Sono chicchi, assolutamente, sì. Ci hanno dato la nostra divisa, il nostro bel cesto, e ci hanno portato attraverso la loro piantagione facendoci raccogliere, perché i chicchi che si raccolgono sono quelli rosso intenso. E poi ammetto che postati, io ero un pochino, no? Più presa dalle foto, rispetto, il mio cesto non era proprio pieno alla fine, però insomma è stata un'esperienza immersiva. Ma si sente tantissimo l'odore di caffè, Elena? È una mia curiosità, non c'entra niente. No, in realtà nella piantagione no, perché il caffè soltanto poi quando viene tostato si inizia a sentire odore di caffè. Ma assolutamente queste piante non hanno l'odore del caffè. Tra l'altro si scende, si sale dalle colline, quindi è un lavoro che chiaramente è fatto in un giorno come l'abbiamo fatto noi, che non è nemmeno stato un lavoro, la nostra guida che voleva appunto permetterci di vivere questa esperienza, però è un lavoro molto duro la raccolta del caffè, perché le piante sono anche su dei pendii molto ripidi, è un lavoro faticoso. La verità è che la raccolta del caffè è un lavoro molto faticoso. E quello che dicevo, poi noi abbiamo appunto vissuto un po' quelle che sono tutte le fasi, quindi la raccolta, la macinazione e poi la tostatura. Quello che racconto nell'articolo è una curiosità che io non mi sarei mai aspettata, è che la verità è che la Colombia esporta l'80% del suo caffè dall'Ecuador, e uno dice ma perché? Ma com'è possibile che producono così tanto caffè? Perché la maggior parte del caffè colombiano viene a sua volta esportato, e questo è perché in pratica non viene, si arriva fino alla tostatura ma non viene poi processato tutto questo, la filiera di produzione, e questo fa sì che quindi gli introiti delle finche non siano così alti, perché come tu ben sai, come ben sa chi ci ascolta, è il prodotto finito che ha poi la maggior raccolta economica, per cui non occupandosi loro del confezionamento e della vendita alle reti, non ci guadagnano poi così tanto. Diciamo che la finca, cioè tutte le finche di questa zona, si sono anche un po' reinventate, alcune hanno iniziato anche a seguire il processo fino alla fine, quindi fino al confezionamento finale, cosa che gli permetterà di avere maggiori introiti, e però hanno convertito anche un po' il loro business in turismo. E sono diventati, come possono essere da noi, bed and breakfast, quindi dei bellissimi posti dove soggiornare. La finca del caffè Santa ho un attimo di vuoto su come si chiamava quella dove siamo andati noi, Santa Rosa. La finca del caffè Santa Rosa, per esempio, ha anche 8 camere bellissime, con vetrate, vista collina, la piscina. Quanto io ho proprio pensato, io comunque una settimanina qui me la farei tutta. Si evince dall'articolo che la nostra Elena non è stata soddisfatta della poca permanenza in questi posti. No, è vero, ma perché si respira un'atmosfera, allora le persone sono calorosissime come in tutte le altre zone della Colombia, questo clima così mite, così bello, questa natura fantastica, e poi quest'ultimo giorno passato in questa finca immersa tra le colline, mi ha proprio fatto venire voglia, ci avrei speso qualche giorno in più, magari di vero relax, proprio immersa lì in una finca, solo natura, magari un libro, sarebbe stato sicuramente meglio, però purtroppo i viaggi hanno sempre i giorni contati. Siamo arrivati in fondo al nostro viaggio di oggi, no Elena, con te? Siamo arrivati alla fine, sì, e quindi... Non parlerò più di Colombia, però dico una cosa, ho pubblicato un ultimo articolo proprio questa settimana dove parlo dell'ultima tappa. Dove io sotto ho commentato bellissimo. Esatto, dove hai anche commentato, dove perché parlo letto, della parte... L'ho letto. L'hai letto, ti è piaciuto, quindi sì. Ti è piaciuta anche la parte caraibica. Infatti, no. Sì, ho fatto un viaggio totale, insomma, ho portato dalla foresta amazzonica alle colline del caffè alla costa dei Caraibi, perché effettivamente la Colombia è ricca così. Però non è che non vengo più a raccontarvi niente, come ti dicevo fuori onda, fra 13 giorni parto per il mio nuovo viaggio e verrò poi a raccontarvi quello. Destinazione non si dice top secret, però tornerà a raccontarci quello. No, si può dire, oramai si può dire, a 13 giorni si può dire, torno in Africa e vado in Etiopia. Precisamente nell'Omo Valley, quindi suppongo che incontrerò tante persone, villaggi, e farò tantissimi ritratti. Tornerò allo scatto che mi piace di più. Oh, ok. Quindi Elena, che dire, grazie, auguri di buone feste a te, divertiti nel tuo viaggio e torna presto perché ci mancherai tantissimo. Grazie mille Beppe, grazie a te per avermi ospitata, come sempre è stato molto bello e divertente, e buon Natale a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie Elena, ciao e a prestissimo. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it